America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York. Mario Platero. Oltre ai problemi egiziani per Barack Obama si aggiunge un altro problema interno, questa volta che riguarda la sua riforma sanitaria. Ricordiamolo, riforma sanitaria sotto il fuoco incrociato dei repubblicani alla Camera, che hanno già votato per ripudiarla. Il problema per l'amministrazione però è che ci sono dei giudici molto attivi, e proprio ieri un giudice in Florida, il giudice Roger Vinson, ha dichiarato anticostituzionale l'intero progetto per la riforma sanitaria di Barack Obama. Sostanzialmente il giudice afferma che è anticostituzionale costringere qualcuno ad acquistare qualcosa, e dunque il fatto che la legge preveda l'obbligo per un datore di lavoro o anche per il singolo di acquistare una assicurazione sanitaria, ecco, questo è incostituzionale e rende dunque anticostituzionale l'intero progetto di legge. In questo caso il giudice ha un punto di forza: attorno alla sua decisione si sono coagulati altri 25 stati e una gran quantità di associazioni imprenditoriali. Per il momento il giudice non ha deciso di bloccare l'iter che da qui al 2014 trasformerà questo progetto di legge in una applicazione concreta, ma è chiaro che il problema è molto molto serio. Sul fronte egiziano resta una posizione d'attesa. Robert Gibbs, il portavoce del presidente, ha detto che gli Stati Uniti si aspettano in settembre elezioni trasparenti, aperte a tutti, in modo da poter consentire la massima espressione della democrazia. C'è sempre un atteggiamento, come dire, più simpatico o di supporto, di appoggio per una transizione dei poteri che possa prevedere un ruolo dei militari prima di cedere il potere alla piazza, che potrebbe avere un ritorno di fiamma pericoloso, soprattutto se dovesse emergere alla fine la componente islamica come componente dominante. Si è chiusa qualche giorno fa a New York la terza settimana italiana del vino, Vino 2011, organizzata dall'ICE. 450 aziende vinicole italiane, di cui 250 venute direttamente dall'Italia, 80 produttori che non erano mai sbarcati in America, che hanno ricevuto assistenza burocratica per entrare su questo mercato dagli organizzatori della mostra. Ecco, è interessante, credo, per noi capire se l'ICE continua o continuerà, visto che ci sono voci di riforme, di cambiamento di missione, a svolgere questa missione un po' più tradizionale. Lo chiediamo a Umberto Vattani, il presidente dell'ICE. Continueremo a presentare questi settori che hanno fatto la forza del Made in Italy tradizionale. Ma a questi aggiungiamo ormai la biotecnologia, la nautica, nuovi settori, le energie rinnovabili, dove l'Italia sta facendo dei notevoli passi avanti, tanto nella ricerca come nella produzione. Bene, dunque un approccio, come sentiamo da Vattani, così mix, di policy mix. In effetti è giusto non abbandonare quelle che sono le tecniche tradizionali, anche perché pensate che un prodotto come il vino ha ormai il 30% del mercato, contro per esempio il 24,5% di quello che ha la Francia, del mercato ovviamente americano. Per il nostro export questo si traduce in 1,1 miliardi di dollari di esportazioni di vino per i primi 9 mesi del 2010, una crescita del 10% sul volume del 2009. A questo punto c'è da chiedersi però, guardando al di là del prodotto tradizionale, come ci muoviamo anche nei confronti di paesi emergenti come la Cina, come l'India, insomma, che cominciano a diventare concorrenti, se non direttamente ovviamente sul vino, ma su ben altri prodotti. Ecco, ambasciatore Vattani, come ci poniamo noi rispetto ai paesi emergenti? Beh, noi abbiamo naturalmente in tutti questi nuovi paesi, come la Cina, il Brasile, l'India, la Russia, dove si è creata ormai una classe dirigente che ha un livello di vita molto elevato, noi continueremo a trovare lì degli appassionati clienti per tutto quello che è sinonimo di classe, di eleganza, di stile, e cioè di quello che fa forte il Made in Italy nel mondo. Ma c'è di più: le nostre macchine utensili, quelle che servono per produrre prodotti di tale qualità, vanno a ruba. Le macchine per il tessile, per la lavorazione del vetro, per le componenti plastiche, per la misurazione e così via. Avremo sempre un grande mercato grazie ai prodotti e alle macchine che servono per farli. Ecco, ambasciatore, c'è un punto centrale però in tutto questo. Per esempio, alcuni di questi paesi si stanno organizzando anche dal punto di vista dei finanziamenti per appoggiare le loro esportazioni. Si lavora in modo sistemico con la parte bancaria, con l'equivalente dell'Exim Bank americano, che da noi è la SACE. Ci sono di nuovo degli approcci sistemici anche settoriali, industriali. Ecco, possiamo parlare di questi aspetti? Conta il finanziamento, ad esempio? Non è tanto il finanziamento che manca. Molto spesso manca il sistema che consenta loro di risolvere dei problemi che stanno diventando sempre più acuti. Per esempio, il problema del controllo strategico del territorio. Ora, noi, per l'esperienza che abbiamo, siamo in grado di aiutarli enormemente a creare un sistema di protezione civile, di controllo del territorio, con tutta la filiera che va dalla prevenzione, dall'allarme, dall'intervento immediato e in che modo. Quindi quello che dovremmo fare sempre di più insieme alla rete diplomatica e consolare è far sì di presentare anche il sistema nel suo complesso e non soltanto il prodotto finale. La filiera del costruire e non soltanto i rubinetti o il lavabo, ecco. E questo è la forza del nostro paese, che ancora non è stata, diciamo, per il potenziale considerevole che possiede, non è stata ancora messa in campo. Ambasciatore, queste idee di cui ci ha parlato si muovono nella direzione generale che prevede un po' il cambiamento di missione o di riforma dell'ICE? Senz'altro, vanno proprio nel senso indicato dal Ministro dello Sviluppo Economico, l'onorevole Paolo Romani, il quale vorrebbe anche incidere sulla struttura e sul sistema di operare dell'Istituto, nel senso di dargli maggiore incisività, aggiornarlo in alcuni metodi operativi e soprattutto metterlo in condizione di fare ancora di più rispetto a quello che stiamo facendo ora. Ora, noi vediamo con grande favore tutto questo e ci auguriamo che nei prossimi mesi si possa arrivare a una soluzione di questo tipo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Kanye West ha già annunciato un nuovo album che arriverà quest'estate. Pensate che l'ultimo, apprezzatissimo, era uscito appena a fine novembre. Dunque vi propongo di questo straordinario cantante Runaway. Find pictures in my email. I sent this girl a picture of my hey. I don't know what it is with females, but I'm not too good at that. See, I can have me a good girl and still be addicted to them hood rats. And I just blame everything on you. At least you know that's what I'm good at. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.